salutiamo qui, io vi lascio e vado a pensare, rifletterò durante l'ultima notte dell'anno su come darvi fastidio al prossimo, per il 2015 di Tutti i Convocati, vedrete che ci riusciamo. No, a parte gli scherzi, buon anno a tutti davvero. Domani vi lascio in compagnia di Giovanni Capuano, che sarà qui in diretta per parlare con voi. Auguri anche da parte di Franco Piantanini, dal nostro autore, e di Gianmarco Ferronato in regia. Ciao.